Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dal signor Carruba, dal signor Barisoni, financo, anzi, dove chiamano in diretta? Dal signor Milan, come mai non chiama gente che cita Mein Kampf, non chiama, io mi chiedo come mai solo. Eccoci qui, la zanzara! Caro Parenzo, eccoci. Ti racconto subito una cosa che mi è successa. Ho preso un treno in questo weekend, no? Sono arrivato a destinazione, cioè a Milano. E a un certo punto scendo. Da dove è arrivato? No, lascia perdere, sono cose private. Scendo dal treno. Da dove ma non è importante, non è importante. No, scendo dal treno, e cosa succede? Che vedo delle signore con le gonne larghe. No. Un po' sporche, con dei bambini in mano, che si avvicinano in gruppo, in massa, con dei cartoni intorno ed entrano dentro una carrozza. Vanno dentro una carrozza, carrozza 10, ancora me lo ricordo. Carrozza 10. No, ma che dormire, no! Stavano puntando degli stranieri che stavano prendendo posto con i loro bagagli dentro la carrozza numero 10 dell'Eurostar. E signore con le gonne molto lunghe, larghe, un po' sporche in faccia, con dei denti tutti, no, alcuni d'oro, altri. Vabbè. Signori zingari, signori rom, presumibilmente, non lo so, non voglio accusare nessuno. Allora, cosa ha fatto il cittadino normale Giuseppe Cruciani sceso dal treno? Cosa si è messo un po' a guardare. Salvini. Si è messo ha chiamato Casa Pound. No, cosa ha fatto? Allora, si è messo un po' a guardare il cittadino normale. Bug, diciamo. No, si è messo un po' a guardare, poi ha chiamato, ha interpellato il capotreno, insomma, un signore con la divisa delle ferrovie dello Stato. Ha detto: guardi, può chiamare la polizia per mandarla al vagone numero 10? Perché c'è un gruppo di zingare, un gruppo di rom che si stanno intrattenendo con degli stranieri, non a scopi, come dire, no? Di divulgazione, non a scopi di insegnamento, eccetera. E con mia grandissima soddisfazione, una decina di minuti dopo, atteso apposta lì, i signori poliziotti si sono, come dire, si sono presentati con le manette e hanno arrestato due o tre di queste zingarelle alla stazione centrale di Milano. Che eroe. Un gesto da cittadino, ti metteranno in lista dove con Salvini e Casa Pound? Ma che c'entra la lista? A me non me ne frega un cazzo di stare in lista con nessuno, non me ne frega niente. Ti racconto quello sarà che dovrebbero fare. Salvini. Ma no, ma perché un Salvini? Alla Radio Padania Libera. No, ma cittadini normalissimi che dovrebbero di fronte a un reati conclamati come il furto, dovrebbero immediatamente denunziare tutta l'autorità civile, politica, giudiziaria e militare. Si sono sentite durante la manifestazione di Salvini sabato delle voci chiaramente fasciste, caro Parenzo. Io ero lì. Anche Vessilli. Sono andato lì proprio per vedere qual era il tasso di neofascismo. Allora, questi rappresentanti di Casa Pound. Anche col bambino sono andato. Devo dire la verità, sono minoritari in questa vicenda qua. Cioè, sono una piccolissima parte Io ho notato folcloristica. Striscione Garriva. Uno striscione nero. Garriva. Dimmi. Con sopra scritto Razza Piave. Razza Piave, sì. Quelli sono i leghisti. Razza Piave. Vabbè, Iannone, il capo di Casa Pound, dice: noi siamo mussoliniani. Iniziamo così, va. Mussoliniani. Siamo mussoliniani, non vedo qual è il problema. Lei si ispira a Lenin o a Don Sturzo, e noi siamo liberi di rifarci a Benito Mussolini. Beh, lo dice con una tale normalità che questo è grave, che è quasi che... vedi che fa effetto anche a te, c'è anche a un vecchio ormai vecchio cinico come te. Vabbè, questo è il problema, ma che ormai è normale, ma è ma una volta si nascondevano, una volta non avevi il coraggio dirlo davanti a un microfono, non avevi il coraggio, ora sì, questo è il problema, non è che sono fascisti, non è vero che sono meglio così, è che non c'era il coraggio di rivendicare l'appartenenza. Da un certo punto di vista meglio, così sono più visibili, no? Sì, ma no, è che ormai è tutto sdoganato. Comunque, senti, lo sai qual è la cosa, in realtà noi ci giriamo intorno, ma sai qual è la cosa che è venuta fuori? È che sono le 6.40, forse faccio male a dirlo, ma sono le confessioni di una ninfomane. Dice alle 6.40 non è il caso. Hai letto tu? No, perché dice una grande verità. Non in Italia. No, è un articolo d'Inghilterra, ma ci saranno anche in Italia. Allora io faccio appello a tutte le donne della Zanzara, a tutte le ascoltatrici della Zanzara, di chiamarci per confessare anche voi. Giustamente i vostri vizi, le vostre manie. Non solo gli uomini sono malati di sesso, anche le donne. Chi l'ha detto che solo gli uomini sono ossessionati dal sesso? E racconta una gentile signora britannica, se non sbaglio, che una volta ha fatto sesso con due uomini in una sera prima di andare all'appuntamento con il terzo. Incontra gli uomini solamente per fare sesso, non c'è bisogno prima che mi portino a cena. Sono le cose che normalmente pensiamo noi, no? E che può pensare anche una donna. Chiamateci e raccontateci la vostra tranquilla esperienza sessuale, giusto? Magari dopo questa radio, in genere si ricevono appelli a che chiamassero per denunziare le partite IVA, anche i soldi che lo Stato deve alle imprese. Invece ora mi pare che cambi un po' il vento in questa radio. Volevo sapere una cosa solamente. Da una cosa, sì. Dimmi. Eri depravato o sei diventato depravato? Però incombe anche la questione Partito Democratico, oltre alle discussioni su Salvini, leader del centrodestra, questioni noiosissime, quanto tasso di fascismo c'è in Salvini oppure no, c'è anche la questione del Partito Democratico, perché un condannato in primo grado per abuso d'ufficio, il nostro amico De Luca, ha vinto le primarie e qui si mette male, come si dice in gergo, perché che cosa fa adesso il Partito Democratico, che ci ha sfrantumato le palle per una vita con la questione morale, con quelli che sono semplicemente indagati, che devono essere esclusi? Succede che De Luca cosa chiede? Addirittura di cambiare la Severino, chiede il signor De Luca. Non sto violando assolutamente niente. Ma sì, lei non può fare non il governatore, sto violando assolutamente niente. Possiamo aprire un grande dibattito giuridico. La legge mi consente tranquillamente di candidarmi. Punto. Ma non di fare il governatore. Ma non di fare il governatore. La legge mi consente di candidarmi. Risolva il Parlamento questo groviglio e questa demenzialità. Non è un problema mio. Devo dire che combatte sempre come un leone e nel merito può anche avere ragione, però a questo punto il Partito Democratico e il Parlamento, cioè che è sostanzialmente poi il Partito Democratico, diciamo il governo, dovrebbero fare una legge ad personam sul intervenire sulla Severino per permettere a De Luca, ove mai vincesse le elezioni in Campania, di restare a fare il governatore. Vi rendete conto della follia? Pazzesco. Vi rendete conto o no della follia? Della la follia è di De Luca o della legge Severino? Bah, chissà. Comunque, poi dice De Luca, io non voglio essere come accomunato a Berlusconi, Gradirei non essere accomunato con la vicenda di Berlusconi, perché questa è un'altra cosa che deve terminare. Ma sei Berlusconi condannato, è stato condannato in via anche definitiva. Tu sei condannato. Su questo però c'ha ragione Luca, Berlusconi è condannato in via definitiva e lui è condannato in primo grado, ma la follia è questa, che un condannato in primo grado debba sospendersi nel caso in cui vince, è condannato in primo grado, dunque innocente, io la penso così. Citazione sul palco di Salvini, sentiamo un po' chi ha citato Salvini, quasi a sorpresa diciamo, tra gli altri, perché poi ha fatto citazioni di Dosturzo, non mi ricordo chi ha citato. Don Milani, sì, vabbè. Non è la stessa cosa. No. Però va bene. Quanti sanno a che punto arriva l'idiozia umana che ha provocato quasi 2000 morti sotto il Vajont? A me piacerebbe che sui banchi di scuola i nostri bambini studiassero l'idiozia che ha portato alla tragedia del Vajont, magari sui libri di Mauro Paolini o di Mauro Corona, e poi capissero che l'uomo non deve andare oltre quello che la natura gli permette. Marco Paolini, però posso dire solo questo? Sì, no, perché da poi non voglio essere. Mauro Corona è con noi, ciao Mauro. Buonasera. Eccoci, che effetto fa essere nel Pantheon di Salvini? Tu, uomo di sinistra, uomo certamente lontano da... Ci sono due cose però che avete in comune con Salvini, vedo, le puttane e la, la questione delle puttane e la Fornero, se non sbaglio, no? Beh, le prime che mi sono venute in mente, forse ce ne saranno altre. Ma lei mi chiede che effetto fa, beh, insomma, essere citato come qualcuno che ha scritto dei libri da leggere, soprattutto ai bambini, mi fa piacere. Voglio... T'ha fatto un po' di pubblicità, dai, diciamo la verità. Assolutamente sì, ma voglio dirvi che anche Renzi, prima di salire all'Olimpo in una trasmissione TV, citò di leggere i miei libri, quindi adesso siamo pari, no? Ah, siamo pari. Ma tu lo voteresti, Salvini, Mauro? No, però ho detto... Siccome sono un uomo, non dico compiuto, ma un po' attento, ci sono delle cose che dice Salvini che sono giuste, come ci sono cose che dice la sinistra che non sono giuste. A me quella legge Fornero vergognosa che Salvini dice da togliere mi trova d'accordo. Cioè, perché è vergognosa secondo te? Perché ha mandato, non esodato, ha esondato come un fiume in piena tanta gente che non ha né pensione né lavoro, e lo sapete anche voi. Dunque è una legge criminale pure per te? Criminale no, fasulla, ridicola, iniqua e che ha fatto disastri. Criminale è uno che ammazza persone. E lo sai che Salvini ha detto pure questo dalla Fornero, che è una legge criminale. Ma no, io non dico quello che dice Salvini è responsabile. Però lui. Comunque non la voterei, non lo voterei. Cioè, se sei d'accordo, per esempio, su una cosa del genere, se sei d'accordo sulla questione della legalizzazione. Un 90% per votare qualcuno, almeno un 70, non un 20 o un 25. Beh, 20-25, la questione della legalizzazione delle prostitute più la questione della Fornero non è ma un 20. Perché io devo pagare le tasse 56% di queste qui? Regolamentiamole e che prendono 1.000 euro a sera, non lo so quanto, perché non devono pagare le tasse? Beh, ci sono alcune che guadagnano 1.000 euro a sera effettivamente di prostitute. Molte anche meno, lo so, non facciamo... No, ma io su questo sfondi una porta aperta. Mi sembra che siete pazzi entrambi. È riuscita a farmi perdere le staffe come Cruciani. Beh, come no, tua moglie c'è riuscita, l'altra volta hai sfasciato un telefono a picconate, altro che, cioè, altro che Cruciani, cioè, pure tua moglie ogni tanto ti fa uscire dai gangheri, caro. Ma non più ormai, viviamo perché? Distanti. Perché vivete distanti? Ma io solo buongiorno, perché 38 anni di matrimonio. Ma giusto, dopo 30 anni diventano chiunque, anche Ah, ma a me anche meno. Ma non ti viene voglia ogni tanto anche 6 mesi, guarda. Ma non ti viene voglia di prendere tua moglie per mano ogni tanto, che so, andare a fare un viaggio tu e lei, ma da soli da qualche parte? No, queste voglie qui ormai ho 65 anni, mi sono passate. Ma che stai scherzando, Parezzo? Dopo 38 anni, dopo 38 anni hai orrore di quello che ti sta accanto? Ma come? No, orrore. Orrore no, però un sano distacco, dai. No, no, orrore, non diciamo orrore. Ho la spossatezza, sono estenuato, che è diverso dall'orrore. No, l'orrore adesso io esagero sempre. No, come ma magari però... scusa, un bel viaggio insieme, avete condiviso tutta una vita, i vostri figli grandi, andate a fare un grande viaggio. Abbiamo condiviso una vita, non voglio condividere anche un viaggio ulteriore, neanche la morte. Madonna, come ragazzi. Nemmeno la morte? Ma che ambiente? No, tanti spesso ambiscono a morire con la mano nella mano della moglie, non per carità. No, perché no, scherzi, no. Solo erto, solo nella solo. Ma io devo dire, ho la stessa ambizione, Parezzo, ho la stessa ambizione. Siete due malati, in un picco di una montagna da solo, circondato solamente dal nulla, da cani che urinano sul vostro sepolcro. Questa volta, cioè, urinano anche da vivi su di noi. Una volta, a maggior ragione possono urinarmi da morto, che non sento più niente. Ma un urinato da vivo, invece, questo è il male. Ma in che senso urinato da vivo? Scusa. Ma tutti, amici, amanti, figli. I datori di lavoro, case editrici, banche mi hanno sempre urinato in faccia. Lo possono fare anche da morto. Ma perché? Scusa, ma cosa vuol dire? Che vuol dire? Sei un uomo fortunato, ricco, hai scritto libri di successo. Se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, sono un uomo fortunato. E invece quello mezzo vuoto, che cosa c'è dentro? Non creda che si guadagni. Cioè, questa ricchezza dov'è? La ricchezza sono quelli 7.000 che hanno i conti in Svizzera, non Corona, che ha laureato 4 figli, ha comprato una cacca, che ricchi. Ma Gino Paoli, la difesa di Gino Paoli, che te ne pare? Mi ha Gino Paoli mi è sempre stato sul cazzo per la sua spocchia, la sua arroganza. Poiché abbia nascosto soldi non lo so, ma come persona io ho coraggio di dirlo, come dissi di quell'altro, come si chiama, sì, di Cooperlo, sì, mi sta antipatico, Cooper. È un problema mio, non di Gino Paoli. Ma perché ti stava sul cazzo? Spiegami. Ma questo modo di porsi, arrogante, spocchioso, con risposte sempre... Non... Ma perché è stato un grande cantautore non giustifica questo atteggiamento arrogante, fino che è inciampato anche lui in qualcosa. Sì, tra l'altro... Adesso che sa cos'è l'umiltà. Tra l'altro, Parenzo, bisogna pure dire una cosa su questo. L'altro giorno il Corriere della Sera ha intervistato Gino Paoli, non gli ha fatto una domanda il signor Luzzatto Fegis, che è un grandissimo professionista. Perché hanno paura, perché non gli hanno fatto una domanda molto semplice. Ma scusi, signor Gino Paoli, questi 2 milioni di euro che sembrano essere depositati sul suo conto in Svizzera ci sono o non ci sono? Come paura. Sono stati portati lì? Sono stati portati lì legalmente oppure sono stati portati lì, come sembra dalle intercettazioni, in maniera illegale? Non gliel'hanno fatta la domanda, perché, ma tu ti rendi conto o no? Perché uno che minaccia ha detto, se qualcuno mi dice lo mando all'ospedale. Lo mando all'ospedale, sì, se l'avesse detto qualcun altro. Non tollera intrusioni, e quindi per evitare casini anche chi gli fa le domande le fanno adeguate. Comunque, io voglio capire quanto Salvini c'è in Mauro Corona. Abbiamo detto della Fornero, la legge sulla legalizzazione delle prostitute, va bene, anche quella tu vuoi legalizzare tutto. Tu sei, in realtà non lo sai, ma sei molto salviniano, questa è la realtà. Ma guardate che tutti siamo un po' chiunque, diceva Pessoa, che siamo una moltitudine di noi stessi. No, beh, io sono salviniano qua, no. Ma che discorsi? Ma i fascisti che sono con Salvini ti preoccupano? Sì. Sì signore, ecco dove non tollero, ma lui non probabilmente non è neanche fascista, ma per vincere ha bisogno di più gente, quindi vanno bene anche quelli. Ma io per esempio, io ho letto Pierre Dreux La Rochelle, ho letto Céline, ho letto Pound, ma mica sono diventato fascista, quindi perché Salvini ha pubblicizzato i miei libri, mica io sono... Ho detto che alcune cose mi riconosco in Salvini. Ma qua, se dovesse arrivare a guidare questo paese, sarebbe un disastro secondo te o no? No, bisogna dargli una possibilità. Non lo so se sarebbe un disastro, perché io aspirerei a un dittatore temporale, un anno, perché così non riesce a fare leggi neanche Salvini, perché sarà legato ad altri che quando propongono... Dittatore temporale, qualcosa... Vedi questi uomini di sinistra che a un certo punto diventano... È un anarcoide lui. Ma io perché non ho fatto mai politica? Perché soffro di sindrome dittatoriale. Non puoi proporre una cosa e 20 e 10 dicono di no, non la puoi fare. Se una cosa sta in piedi la si deve fare. Proponi un anno di dittatura, certo, di dittatura assolutamente. Ma come dittatura assoluta, dittatura no, assolutamente propongo, non assoluta. Senti, una curiosità, caro Mauro, ma tu donne come quelle descritte in questo meraviglioso articolo di un giornale inglese, cioè donne così malate di sesso come gli uomini, le hai mai incontrate tu? Cioè donne che sono simili agli uomini, cioè che hanno proprio questa malattia dentro, è no. Molto più raro, tu le hai incontrate nella tua tumultuosa vita? Ma io sono stato disgraziato, ma non ne ho mai incontrate. Non l'hai mai incontrate, eh? No, non l'hai mai incontrate. No, no, no. Ma dove vivi adesso? Sempre nella baita, lì su in montagna? Io vivo qui un po' lì nel paese, insomma, a seconda delle esigenze. Ma non c'è neanche il riscaldamento, come fai lì a 2000 metri? No, c'è la stufa. Ma come la stufa? Ma certo che c'è la stufa. Ma come c'è? La stufa, certo. E l'acqua calda? No, l'acqua calda no, devo andare lontano a pigliare l'acqua, è anche pericoloso, una fonte in mezzo alle rocce. E come ti lavi allora, non ti lavi? Ma mi lavo poco, io sono uno che prima ancora di quello del WWF lì risparmiavo l'acqua prima che forse lui nascesse. C'è una puzza dentro quella baita. Quante volte ti lavi, scusa, una volta a settimana? Ma conto una doccia se va bene ogni 10-12 giorni. Ma come, dai, è possibile? Siamo veramente a ma non è possibile. Va bene, ha ragione Corona, ha ragione. No, perché tu sei uno sporcaccione, perché tu sei uno sporcaccione invece, Cruciani. Non sono mica vicino a nessuno. E il bidet? Io mi lavo ogni giorno. Aspetta, faccio la doccia. Bidet, voglio sapere il bidet. Giorni. A casa sì, qua in paese ce l'ho. No, ma il bidet, ho capito, quante volte lo fai il bidet? No, quello ogni sera. Bidet ogni sera, almeno sì. Quello, non stai con le mutande del sole. E come fa? No. Quello no, però la doccia una volta ogni 10 giorni, vabbè, ma è giusto così. Forse anche meno. Una ogni 20. Guarda, io per esempio non la faccio tutti i giorni, io lo dico chiaramente, non la faccio tutti io i giorni. Io tutti i giorni la lavo faccio capelli quando va e bene, quando va bene una volta ogni 2 giorni, quando va bene. Ciao Mauro, ti saluto, ti abbraccio, ciao. Ciao, ciao, ti abbraccio, grazie ciao. A voi. Ciao. Attento al DDT, sai? Ma che me ne frega a me? Io conosco Giuseppe e Davide, è sufficiente. Vabbè, ho capito, Parenzo, non devo parlare subito di sesso, di ninfomani, di questa confessione meravigliosa pubblicata in realtà in Australia, non in Gran Bretagna. Lo so, l'ho capito. Allora parliamo di De Luca, eh? Ma ti va bene De Luca come argomento? Benissimo. Va bene De Luca, benissimo. Allora sentiamo De Luca. Allora, no, ma si può anche parlare di De Luca. No, ma sentiamo De Luca, il quale è un condannato. A me De Luca sta simpaticissimo. Dopo sentiremo uno zanzarologi meraviglioso sulla storia di De Luca. Sì. Va a morire ammazzato, detto ai grillini, eccetera. Eccetera, un personaggio stupendo, meraviglioso, teatrale, condannato in primo grado e chi se ne frega, ha tutto il mio appoggio. Dopodiché c'è una cosa certa: il Partito Democratico fino ad oggi alle 19:18 del 2 marzo ci ha fatto due palle così sulla questione dei condannati, degli indagati, della moralità, della legge e chi ne ha più ne metta. Invece adesso cosa succede? Succede che un condannato in primo grado per abuso d'ufficio, una condanna che lui definisce folle, definisce folle perché secondo lui è una condanna di tipo linguistico. De Luca, project manager invece di coordinatore dei lavori, sono stato condannato per questo. Berlusconi è stato condannato per reato fiscale dalla politica in via definitiva, punto. De Luca è stato condannato in primo grado per ragioni linguistiche, per aver adoperato l'espressione project manager anziché l'espressione coordinatore di un gruppo di lavoro. Punto. Questa è la vicenda di merito. Sarà anche così, lo accerterà il secondo grado e poi successivamente la Cassazione. Resta il fatto che, come dicono tutti quelli di sinistra, ha una condanna in primo grado per abuso d'ufficio. E allora il segretario del Partito Democratico dovrebbe dire a De Luca: caro De Luca, fatti da parte, perché così ha fatto in mille altri casi, anche con ministri del suo governo. Per esempio, mi ricordo un caso nel governo Letta. Insomma, la sinistra ha fatto dimettere un sacco di gente, sì, sì, per motivi anche minori. Adesso, sì, siccome De Luca ha vinto le primarie, tentennano e non sanno che fare. Non solo, ma De Luca cosa chiede? Una roba che se l'avesse proposta Berlusconi o uno di destra, ci sarebbe la rivoluzione, ci sarebbe i titoli dei giornali. Propone di modificare una legge per cambiare la sua situazione, cioè per permettere a De Luca di rimanere in carica nel caso in cui fosse eletto. E dice: io mi posso candidare, è il Parlamento che deve risolvere questa demenzialità. Cioè la demenzialità della legge Severino approvata dallo stesso Partito Democratico. Cioè, ti rendi conto dell'ipocrisia enorme? Non c'è dubbio, enorme, ma non della si doveva italiana. Forse neanche candidare alle primarie. Ma non lo so, per me ha fatto benissimo. Rebus sic perché stantibus. In questo modo rivela l'ipocrisia di fondo che c'è. Non sto violando assolutamente niente. Ma sì, lei non può fare non il governatore, abbia pazienza. Assolutamente niente. Possiamo aprire un grande dibattito giuridico. La legge mi consente tranquillamente di candidarmi. Punto. Ma non poi di fare il governatore. Ah, ecco, ma non di fare il governatore. Beh, intanto uno si la candida, legge mi consente di candidarmi. Risolva il Parlamento questo groviglio e questa demenzialità. Non è un problema mio. Dopodiché mi sono rimaste impresse le parole di Mauro Corona pochi istanti fa, che si fa una doccia ogni 15 giorni. Mamma lui ha detto mia. Più di 10 giorni. Ma è normale, normalissimo. Io voglio fare un applauso, facciamo gli applausi. Siete a Corona. Due sporcaccioni. Applausi a Corona perché si fa questa fobia della doccia, per forza. Beh, fobia, ma le persone questa, che ti stanno vicino, cosa dicono, della doccia, scusami, ma non cosa vuol dire? Sopportano quando è il caso. Ma cioè, perché bisogna odore, per forza farsi la doccia ogni giorno? Ma tu vuoi far passare per normale cose che normale non sono? Facciamo l'elenco? Faccio l'elenco? No, ma poi sembra che la normale sia io. Adesso chiameranno quattro scalzacani che diranno: oh, anch'io faccio la doccia. Ma secondo te invece è normale avere 34 gatti e 14 cani a casa? No, secondo te è normale o no? Me, è normale no. o no? Anche, no, anche ecco, questo secondo questo, me non è normale. Ecco, benissimo. La signora Brambilla, quella delle nutrie, no, ma quella nessuno che ha mai vuole detto adottare che è normale. Una nutria, ma no, e dico una, cioè un topastro gigante vuole adottarlo e sono cazzi suoi. Ma le nutrie, quando distruggono il territorio, vanno ammazzate. Tu vorresti adottare la topa invece, vero? Ma no, non ho bisogno di queste cose. Non c'è bisogno. No, ti prego, appunto, ti prego. Signora Brambilla ha 34 gatti e 14 cani. Ora, uno che ha 34 gatti e 14 cani, normale non può essere, diciamola tutta, normale non può essere, dai. In casa hai 34 cani? Gatti. 34 gatti e 14 cani. Significativo. Ma non perché sia una collezionista, ma perché non riesco a dire di no. Sono tutti raccolti dalle strade, da situazioni di disagio, maltrattati. Ragazzi, ma 34, a parte che bisogna avere anche una certa proprietà, bisogna avere una certa, no? Una proprietà piuttosto estesa. La stessa Brambilla sostiene, tra l'altro, che bisogna rendere impignorabili i nostri amici. Ecco, questa cosa mi è oscura, cioè, tra le tante preoccupazioni che deve avere il legislatore, il politico, non ci può essere pure quella di rendere impignorabili gli animali. Ma che vuol dire? Ma chi è che si appropria degli animali quando viene pignorata una casa? Nessuno! Perché uno si deve occupare di queste minchiate, rendere impignorabili? Sentiamo. Un nuovo articolo che rende impignorabili tutti i nostri piccoli amici, rende divieto che siano messi all'asta giudiziaria e quindi riconosce loro finalmente quello che deve essere, il fatto che sono esseri senzienti, posso dire membri delle nostre famiglie. Domani compio 40 anni e la cambiale dei ricordi mi riporta al 68, quando ero amico di capanna e avevo dato 4 esami con la media del 18. Il mio paese. Allora, caro Capanna, adesso manderemo in onda. Un momento. Che c'è, Capanna? Abbiamo concordato che io avrei parlato 1 minuto e 44 secondi. No, ancora. Nel 68, noi entravamo nelle aule dell'università, prendevamo i banchi e li scaraventavamo fuori. I rettori scappavano come conigli. Ma non è una cosa bella? Bellissimo, gente formidabile quegli anni. Gente come te veniva presa a randellate all'università. Ma non è una cosa bella? Fascisti come te venivano. Ma non è una cosa paura, bella di cui vantarsi. Comunque. Scappavano come conigli. Vabbè, senta, abbiamo raccolto qualche voce alla nostra segreteria telefonica di cui dopo daremo il numero. Sono voci molto forti, che è la rabbia popolare, io direi la rabbia della gente con 3G, la rabbia della gente con 3G, che di fronte al fatto che lei non si vuole diminuire, sì, poi è vero che lei vuole mettere questi soldi in un grande calderone. In un grande fondo. No, in un grande fondo, un cazzo, Capanna. Comunque, lei non vuole mettere questi soldi in un grande fondo. Comunque, in ogni caso, la gente è incazzata perché lei non vuole ridursi il 10%, il vitalizio ne prende due dalla Regione Lombardia e dal Parlamento. Un momento. La radio dalla quale lei parla. Senta la gente che le dice prima. Senta la gente. Segreteria telefonica su Capanna. Parrucchieri e cantautori. A Capanna sei uno sputo, la più bassa forma che ci sia nel globo. Non sei neanche un essere umano, sei solo un pezzo di materia informe, anfibia o più comunemente detta merda. Capanna, ma vattene a fanculo! Mario Capanna, sei la persona più spregevole che esista. Tu fai il frocio con il culo degli altri. Usa il tuo di culo, una volta nella vita, usalo il tuo di culo. Il tuo vitalizio, dallo ai poveri. Ma all'arena con Giletti, era Mario Capanna o qualcuno aveva vomitato sulla sedia? Mario Capanna in sintesi, il buco del culo con il nulla intorno. Capanna, sei il massimo mascalzone arrogante ex santottino, illuso pappone che dovrebbe solo farsi da parte con 500 euro al mese, vergognati. Mario Capanna, volevo dirti che sei il forno olandese della lotta di classe, ignorante come sei, non saprai nemmeno che cosa sia. Capanna, fai pena, schifo e malinconia. Domani compio 40 anni, mamma, e la cambiale dei ricordi mi riporta al 68. Brutto. È la gente con 3G, la gente è quella. La gente è terribile. È la gente con 3G. Alcuna gente fa schifo, però si può dire. Dai. Allora, dunque, vi ripeto il numero della segreteria telefonica per lasciare il vostro gentile messaggio. Fammi ricordare, Capanna, il numero della segreteria telefonica per lasciare un messaggio gentile, una carezza a Mario Capanna che non vuole ridursi il vitalizio. 02, vi ricordo 02 46 52 40 10. Ve lo ripeto, care signorine e cari signori della Zanzara, 02 46 52 40 10. Quasi 20 anni a cazzo dritto. Quante illusioni. Giletti all'Arena riprende la nostra intervista a Pomicino, caro Capanna. No, un momento. Aspetta, c'è Pomicino, Giletti con due L, sì. Fossimo stati alla statale di Milano con il signor Giletti, non sarebbe uscito vivo dall'aula 4. Ho capito, non è bello però. Avremmo preso e buttato fuori dalla finestra del primo piano. Vabbè. Urlando libertà, libertà, libertà. Beh, ho capito, ma non, è baroni. Ma non è bella come cosa. No, un momento, lo dico in un Giletti Pomicino, fammi se... No, non c'è tempo adesso. Vergognarsi di quello che ho capito, ho colocratico pure lui, Giletti. Voglio far sentire Cino Pomicino, che nel programma La Zanzara ha risposto in questo modo a Radio 24 a una serie di domande che gli venivano poste. Sentite come difende l'istituto, con ragione, da parte sua, del vitalizio. È un'aggressione alle famiglie, non ai parlamentari. Ma perché alle famiglie? Spiegami, perché? Anche le vedove dei parlamentari vengono tolte. Vedete, Cruciani l'ha stimolato e Pomicino ha risposto, ma qui è un'aggressione alle vedove. Ragazzi, ma non si può rispondere un'aggressione alle vedove, alle famiglie, su, Pomicino, amico mio, Cirino Pomicino. Allora, uno dei capi dei 5 Stelle, quella che fa parte del direttorio, la signora Ruocco, ha scritto oggi in un post su Facebook, l'onorevole Ruocco, lei non vuole essere chiamato, il cittadino Ruocco, Carla Ruocco, che fa parte del direttorio, l'hanno fatto il direttorio, lo sai, 5 Stelle, no? Sì. La macchina che vedete in foto, e pubblica una foto con una macchina, è comodamente parcheggiata tra le strisce gialle del suo posto riservato, è quella con cui un autista preleva ogni giorno il presidente della tangenziale di Napoli, Paolo Cino Pomicino. Io non sapevo, tra l'altro, che Paolo Cino Pomicino era presidente della tangenziale di Napoli. Ma che cazzo è la tangenziale di Napoli? Una società? La tangenziale di Napoli! Ha una società! La tangenziale di Napoli! Anche la società. Ma certo, divento c'è pazzo! La Pedemontana. C'è anche la società al nord della Pedemontana. Il presidente Cino che Pomicino per anni è stata governata dagli amici leghisti. Aspetta. Ma no, poi va benissimo. Quel Cirino Pomicino, condannato ad un anno e 8 mesi per finanziamenti illeciti ai partiti e a 2 mesi per corruzione. Lo stesso che ogni anno aumenta il prezzo del pedaggio della tangenziale, che molto spesso mangia al ristorante di lusso della Camera e che ogni mese intasca il suo vitalizio di oltre 5.000 euro, pagato con i nostri soldi. Secondo lui, togliere i vitalizi sarebbe un'aggressione alle famiglie e alle vedove dei parlamentari. Io, dice la Ruocco, accompagno i miei figli in una scuola dove un muro del cortile sta per crollare e il governo spende i soldi per pagare queste pensioni d'oro piuttosto che investire in cultura. Quali sono le famiglie veramente aggredite? Beh, amico mio, devo dirti la verità, Carla Ruocco ha perfettamente ragione. Ti scandalizzerà questa cosa, ma ha perfettamente ragione. Un abbraccio forte. E guardate, ho visto che avete molta felicità, quindi guadagnerete moltissimo. Auguri e complimenti. Ormai è tutto degradato. Andiamo con Donato Varese, vai. Pronto? Vai, Donato. Voglio dire una cosa. Allora, siccome che qua l'Italia è diventata invivibile, no? Non riusciamo più a circolare, anche di sera in besta. Aspetta, parla meglio, dove sei collegato, Donato? Dove sei? In cantina? No, sono qua, mi senti? Benissimo. Sì, ieri sera rischiavo qualcuno che mi stesse ammazzando, era purtroppo un extracomunitario. Non ho capito, io voglio scusa. Dire, io voglio chiedere a quel signorino, io non è che quello lì sia il mio capo espiatorio, no? Parenzo non è il mio capo, è soltanto un grandissimo stonza. Richiamiamo Donato che non si capisce una mazza, richiamiamo Donato, dai, Gennaro da Latina, vai Gennaro. Ciao Cruciani, senti, volevo dirti una cosa, io sono arrivato in ritardo, ho acceso la televisione quando c'era il signor Corona, sì, e tu gli dicevi praticamente che a 38 anni di matrimonio tu t'ammazzerai perché è qualcosa di stare con tua moglie. No, beh, io non ci arriverò mai a 38 anni di matrimonio, non sono arrivato manco a 10. Ne abbiamo appena fatti 46. Bene, ottimo. No, ma voglio dirti questo. Cioè, quanti ne hai fatti di matrimonio, scusa? 46. E quanti anni hai? Scusa, sei pure un ragazzino. 70 anni, allora? Ecco, volevo dirti questo, ma tieni presente una cosa, a me non è che non mi piace andare a mangiare fuori, mi capisci cosa intendo, no? No, non ho capito, però... spiegami meglio, andare a mangiare fuori cioè andare a pucciare in altre tazze. Esatto, però ti assicuro una cosa, che praticamente... Andare per campi, come si dice, per campi? Sì, ecco. ma... come vuoi tu, voglio dirti questo, quando io, cioè, ma forse da ragazzo, diciamo, andava bene, adesso mi devi credere, non mi trovo, è qualcosa di assurdo, anche perché con la tua donna che ci sta, scusa, vicino, amico mio, ma è chiaro, adesso non ce la fai più, adesso non ce la fai più, adesso non ce la fai più, senti qua, Giuseppe, ma che stai a dire? È lì che ti sbagli, anzi voglio dirti una cosa, negli ultimi tempi praticamente io ho qualche problema, come ce l'hanno tutti, di prostata, giusto? Sì, che ti hai fatto l'operazione cinese? No, nessuna operazione, io prendo delle pillole che non mi tolgono quel desiderio, soltanto mi tolgono l'impiccio, praticamente nel momento piacevole non sporco nessuna, poi intendo poche parole. No, non ho capito, io scusa, non sono pratico di queste cose qui, puoi spiegare alla platea molto ampia, tra cui il presidente di Confindustria, allora, e tutti quanti industriali italiani, esatto, cosa significa questo problema qui alla prostata, scusami? Esatto, ci sono a volte, siccome non si riesce ad urinare con molto, non molto frequentemente, ma con una certa rapidità, sì, facendo la flussometria, il dottore ti dà delle pasticche. Queste pasticche non impediscono l'erezione. No, era una cosa, ma permettono di andare a urinare meglio, diciamo, no? Sì, sì. Ma tu non è chiaro per queste cose, è incredibile, però. Ti escludono il piacere. Vabbè, allora dimmi la tua. Ma no, ma per carità, ma se ti sembra normale alle 19.40 che un simpatico signore con tutto quello che ha da fare prende il telefono 800 24 0024, aspetta in linea un po' perché i centralini sono intasati, per spiegarci, poi normale sono io, per carità, ma per spiegarci ai nostri microfoni con tutte le cose accadute nel mondo, non dico in Italia, non dico di intervenire su De Luca, per carità, ma che sia interessante per il vasto pubblico sapere che questo signore per urinare, ma che poi il matto sembro io, capito? Non mi sembra. Vabbè, Gennaro, dopo questa, dopo aver preso la pillola, che succede poi? Guarda, Cirino Pomicino, vi siete dimenticato che lui ha comprato un'abitazione con la stessa situazione? Ecco, di... è andato a virare sull'abitazione di Pomicino. Ecco, sì, all'epoca ha comprato. Ma che c'entra adesso con la pillolina? L'ha pagato la metà di quella che valeva. Ma questo purtroppo è accaduto e continua ad accadere. Ecco, in Italia continua a accadere anche di peggio. Guardi le case, Gennaro, guardi le case, a quanto sono affittate le case del Comune di Roma, la vergogna mondiale delle case del Comune di Roma, che potrebbero valere un sacco di quattrini, affittate agli amici degli amici, spesso, non sempre, a 4 euro. Noi da quanti anni paghiamo la tangenziale a questo signore? Io poi non capisco una cosa, Parenzo. Gennaro, però tu ti sei fermato sul più bello. Ci stavi raccontando in realtà del rapporto sessuale con tua moglie, che è ancora, esatto, attivo, sì, a 70 anni. Poi hai virato su Pomicino perché ti è partita la vena su Pomicino. No, io mi sono... perché man mano che aspettavo di ascoltarvi, ho sentito tutte le cose. Ho detto, stavolta me le devo segnare. Vabbè, comunque, allora? È un rapporto bello. Tu non hai idea com'è. È qualcosa, diciamo, non è, ti dico una cosa, soltanto che noi da ragazzi si può dire che non andavamo con la mano nella mano, come ho sentito, e non ci andiamo nemmeno adesso. Però quando siamo da soli è qualcosa di diverso, non è cambiato nulla. Vabbè, ho capito, vivi bene il rapporto con tua moglie a 70 anni. Ma volevo dirti questo, perché tu... Non ho capito che mi volevi dire. Quando tu col passare degli anni, praticamente tu invecchi unitamente con tua moglie, come l'apprezzavi il giorno del matrimonio? La continuerai ad apprezzare anche adesso. Ciao Gennà, Andrea Pesaro, vai. Andrea, dimmi. Salve, io volevo mandare a fanculo Parenzo, è possibile? Beh, come no, prego, si accomodi. Tutto anche a casa sua, grazie. No, prego, che c'entra, no, scusa, vabbè, però lei sembra che lo faccia apposta, farsi mandare a fanculo. Siccome non io si preoccupi, sento... che ce la mando io in 40 secondi appena finito. Vabbè, Andrea, però motivi il suo vaffanculo. Motivi il suo vaffanculo. Il vaffanculo è che Parenzo è anche molto simpatico, ma la deve smettere di difendere l'indifendibile. I Rom sono indifendibili. Io non difendo i Rom in quanto Rom. I Rom in quanto Rom sono quelli che in due rapine, in due furti su tre vicino a casa mia in un mese hanno distrutto tre volte un supermercato. I Rom così sono una categoria generica, i ladri vanno puniti. Vabbè, fine. Questo è scontato, Rom. I ladri vanno puniti. Sai che vorrei fare io? Si vogliono integrare, non si vogliono. I ladri vanno puniti, siano essi padani di Varese, Rom, bergamaschi, di Racalmuto. Anche per quelli come lei che difendono l'indifendibile. Ma lei può diventare razzista quando le pare, ormai è tutto sdoganato. Sai che cosa vorrei fare ogni giorno? Una rubrica dedicata ai Rom, agli amici Rom. Puoi farla anche dedicata diritti che guardate, vengono al nord. No, perché ogni giorno, non a caso, ci arrivano notizie su reati che riguardano i Rom. Ora, sì, sarà un caso oppure c'è, come dire, una tendenza, no? Oppure c'è un qualcosa che riguarda proprio i Rom. Cioè, tu stai dicendo che è nel DNA. No, io non ho detto nessun DNA. Quindi cosa vuol dire una tendenza? No, ma sarà un caso che ogni giorno si leggono notizie, l'altro giorno a Pescara non so che cosa è successo, e l'altro giorno da un'altra parte. Sarà sì, perché un caso sono un soggetto no? Particolarmente attenzionato. No, attenzionato, si attenzionano da soli. Attenzionato, Vito da Cagliari, Vito, vai, Vito. Vito? Sì, pronto? Dimmi, vai. Senti? Cruciali? Vai, Vito, parla però, amico mio, dai. No, serviva voce, se no ti incazzi, quindi l'ho tolto. Bravo. Ecco. Molto bravo. Allora, io ho chiamato inizialmente per parlare di vitalizi, però mi hai sollecitato invece l'intervento quando hai parlato dei nutrie, la brambilla. Perché tempo fa ho letto la notizia dell'ottare che violentavano i pinguini. Sì. E quindi mi chiedevo perché questi animalisti che si infervorano appunto per le nutrie o per altri. Sì, però mi sa che era più interessante i vitalizi, Vito. Che volevi dire sui vitalizi? Oh, ok, vai. Però potrebbero anche andare lì e proporsi per le otarie, quello che dicevo io, invece di lasciare i pinguini violentati dalle otarie. No, sui vitalizi era la questione era. L'ex presidente della Corte Costituzionale ha affermato che non è possibile intervenire sui vitalizi per i condannati, perché giustamente lui faceva l'analogia con coloro che prendono la pensione e che guarda, sono questa cosa qui Vito, che non si può intervenire sui cosiddetti diritti acquisiti è una puttanata pazzesca. No, è vero, è ma vero, quanti ce ne sono carcerati, ma non c'entra niente. Il vitalizio è una cosa diversa, no, è diversa la cosa, perché il vitalizio è una cosa diversa dalla pensione, che ne dicono alcuni, eccetera. Il vitalizio è una cosa, anche loro, ma contributi, ma è una cosa diversa. Beh, altrimenti sì, non si chiamerebbe vitalizio, è una cosa diversa. In Italia purtroppo ci si difende dietro questa follia dei diritti acquisiti, per cui non si può toccare nulla, perché poi ci sono i TAR, ci sono, voi pensate che in Italia due sindaci come De Luca e come De Magistris sono stati rimessi in gioco e rimessi come sindaci, magari hanno pure ragione, da un TAR. Ma in quale paese al mondo un TAR rimette al suo posto un sindaco? È una follia inaudita, per cui capisco che è difficile intervenire sui diritti acquisiti, capisco che è difficile intervenire sui diritti acquisiti, proprio poi qualcosa, appunto, bisogna fare, cioè, però non è che si può dire no, siccome è stato deciso prima, siccome era un nostro diritto non si può intervenire, dai, su, ciao. Non siete seri per niente. Ed è con noi Guglielmo Vaccaro, Partito Democratico, Campania, come stai? Buonasera, in pericolo nelle vostre mani, un saluto agli ascoltatori. No, sei in pericolo nelle mani di De Luca, amico mio, non esatto, nelle nostre, scusa. Senti, Guglielmo, hai visto? No, ha vinto De Luca, dunque tutti con De Luca dovrebbe essere, così o no? E tutti con De Luca, no. Spero. Intanto ci sono i ricorsi che piovono, non andranno lontano perché non troveranno manco le schede, credo che esistano solo i verbali in qualche caso. Ma come non trovano manco le schede? No. Ma cioè, no, ma pensi davvero che al sud, diciamo, di Roma, per fare un broglio si mettono a fare anche come le votazioni finte, no? Fanno direttamente il verbale, è chiaro. Cioè fanno sempre il verbale senza passare, diciamo, per le schede. Dunque, secondo te sono state primarie delle primarie truffa? Come sempre in Campania, sì. Penso come che negli anni poi apriranno proprio come di una facoltà di brogliologia, sì, che vedrà illustri luminari campani protagonisti di queste malefatte tenere lezioni, seminari. Ma i protagonisti di queste truffe alle primarie, di questi brogli, ho visto che potevano votare, un giornalista del Mattino ha votato 4 volte. Quali sono state secondo te le cose più clamorose che sono avvenute in queste Ma io dico sempre, orologio alla mano, se un seggio è aperto 12 ore che fa 720 minuti e lì dentro si dichiara che sono passati più di 1000 elettori, c'è qualcosa che non va, perché bisognerebbe avere una fila perenne per tutte 12 ore senza mai una sosta di persone che votano al ritmo di 35-40 secondi l'uno, insomma non le fanno nemmeno bene queste cose, cioè si sono scritti i voti da soli, cioè con finti elettori. spesso e volentieri. Spesso ma, e volentieri. Ma chi, scusami, se, ne av- chi allora... se ne è avvantaggiato di questa cosa? No, perché è interessante. Chi se ne è avvantaggiato? Ma mi sembra che questa volta nella sfida De Luca Cozzolino ha vinto De Luca e Cozzolino ci ha rimesso le penne, ma d'altro canto chi di primarie ferisce, di primarie perisce. Lui, cioè, per cui è De Luca che, è De Luca che ha fatto più brogli. De Luca in prima persona non se ne è occupato. I suoi uomini sono, diciamo, dei professori di brogliologia che hanno operato sapientemente. Beh, ma chi? Io ma chi? Uomini, uomini suoi? Ma uomini suoi, insomma, De Luca è notoriamente amante delle donne. Insomma, adesso dire così, insomma, vorrei. No, uomini suoi, nel senso, persone che fanno riferimento a lui, alla sua area. Ma sicuramente è così, perché a Salerno in provincia in particolare continua a votare frotte di persone che ovviamente sono semplicemente, nel migliore dei casi, registrate nei seggi, ma non ci sono manco passati, ma nemmeno per sogno. Ancora una volta c'è Salerno che si afferma come la capitale della partecipazione democratica. Dunque aveva ragione Saviano. Ma assolutamente sì. Senti, ma Renzi che, deve Renzi che deve fare a questo punto? Commissariare il partito che lo ha portato fuori strada. Eh beh, ma non lo farà, perché qui c'è, non lo farà mai, lo sai. Danzare dovesse... sull'orlo del burrone delle primarie in cui sta precipitando il PD campano, allontanare questa segretaria che ha danneggiato tutto e tutti, e indicare un nuovo candidato. No, ma scusa, non... qualora Renzi, presidente del Consiglio, capo del partito, dovesse confermare De Luca, che cosa fa l'onorevole Vaccaro? La sospensione si trasformerebbe in un allontanamento dal partito, sì. E poi, insomma, se Renzi nemmeno si scusa dopo che il disastro sarà conclamato dall'elettorato, bisognerà pensare di andare via dall'Italia. Addirittura, perché De Luca, perché De Luca fa il candidato. No, non perché De Luca, ma se il segretario nazionale, presidente del Consiglio, mi propone un candidato che è un condannato, quando non più di un anno fa abbiamo chiesto a una ministra della Repubblica, una campionessa, è vero, questo è vero, di mettersi per una multa non pagata, un'IMU taroccata, cose di questo tipo. Mi siamo di fronte a un condannato. Sì, no, è vero, questo allora, è vero. Se Renzi vuole portare il paese su questa nuova frequenza, questo non è più sicuramente il mio partito e probabilmente non sarà più il mio paese. No, ma questo devo dire che su questo Vaccaro ha ragione, perché l'incongruenza e la contraddizione è evidente. Lui chiede al partito, chiede al governo, chiede al Parlamento di intervenire con una legge ad personam per correggere la Severino, o sbaglio, Vaccaro? Beh, a quel punto, diciamo, i beneficiari sarebbero due, lui e Berlusconi. No, no, Berlusconi è definitivo, Berlusconi è definitivo. Ah, ecco, lui chiederebbe una legge solo, diciamo, per un... Proprio ad, ha detto oggi che bisogna intervenire sulla Severino. Ma dai, insomma, c'è da vergognarsi, insomma, non le fate ascoltare queste cose ai più giovani, perché poi il rapporto con lo Stato e con la giustizia, insomma, è già fragile in questo ma momento. Scusami Guglielmo, lui dice una cosa: sono stato condannato per motivi linguistici, è uno scandalo la mia condanna. Tu sei d'accordo oppure no sul merito, sulla condanna di De Luca in primo grado? Io rispetto la magistratura e gli esiti, diciamoci, di un processo. C'è una condanna, punto. Quando noi per anni abbiamo chiesto a persone che avevano avvisi di garanzia di dimettersi, poi rinvia a giudizio, poi una multa taroccata, di allontanarsi dalla vita pubblica o comunque di attendere tutte le verifiche fossero concluse, e lo abbiamo fatto per proteggere la politica da un sentimento, diciamo così, che stava degenerando verso l'antipolitica. Cosa facciamo adesso? Nella regione principale del Mezzogiorno, dove candidiamo un condannato, poteri criminali, candidiamo un condannato. Ebbè, ma questo non è una roba seria, non è una roba decorosa, non è una roba che mi riguarda, non sarà fatta con il mio nome né nel mio nome. Grazie Guglielmo, ciao, a presto. Un saluto a tutti. Ciao, gli ciao. Ascoltatori. Ciao Guglielmo, grazie ciao, ciao. Beh, caro Parezzo, ma l'amico Vaccaro ha attaccato, ha sprombattuto De Luca dandogli del professore di... Tutto il PD ha attaccato, che è mica sì, solo il PD, Luca. Però soprattutto De Luca dicendo che sostanzialmente, anche se non l'ha attaccato direttamente, lui è estraneo, sì, ci sono i professori dei brogli, però insomma ha detto che le primarie sono truccate, che De Luca è un condannato e che Renzi deve cancellarlo dalla candidatura, altrimenti lascia il PD, e questo uno può dire chi se ne frega, e lascia pure l'Italia, chi se ne frega pure questo, però insomma è una parte del PD che si ribella alla candidatura di De Luca. Noi non ci ribelliamo, non ce ne frega niente, ovviamente. Però notiamo che cosa? La contraddizione enorme, cioè. Enorme. Ma Marina da Roma, vai Marina, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi. Io volevo dire, sono due sere che sento la segreteria telefonica con gli insulti a Capanna. Sì, sì. Però io volevo dire, perché non aprite anche una segreteria telefonica per sentire cosa dicono sul fatto che per esempio non vogliono levare il vitalizio a quelli condannati per corruzione? Ecco, vorrei sentire. Vabbè, ho capito, anche... amica mia, non è che possiamo fare quattro segreterie telefoniche, una ce l'abbiamo. Una ce l'abbiamo. Tutti Cruciani. Ma a senso unico che? A senso unico che? Se abbiamo rotto i coglioni a Pomicino l'altro giorno, che non guardi, ci vuole più parlare. Guardi, però in questo caso di Capanna. E chi se ne frega pure di quel caso. Sembra francamente un eccesso rispetto a tutti i corrotti che ci sono, veramente. Ma io non che dico che. Ma io non... continuano. No, scusa, a rubare, Marina, io non ho detto. D'accordo, ma io non ho mica detto che è un corrotto, che è un pezzo di merda, che è uno stronzo. Io ho aperto, come dire. La segreteria al contributo gentile del popolo e della gente. Roma Capitale, la gente non ha ancora fatto piazza Vabbè, ma pulita. Adesso, ma chi voglio se ne frega adesso? Piazza pulita. Qui è un marciume. Vabbè, d'accordo. È un marciume. D'accordo, sarà pure un marciume. Te lo posso dire perché ho delle esperienze dirette. Va bene, esperienze dirette di che tipo? Marciume, ladri ovunque. Va ladri. Bene. Lei dice Capanna non c'entra niente col marciume. Ho capito, no, per amica me mia. No. Ma chi dice? Chi vero, ha accomunato? No, vabbè, ho capito, ma chi ha accomunato? Non possiamo fare 10 segreti telefoniche, una apposta su Pomicino. Va bene, volevo dire questa cosa. Va bene, ti abbraccio, vai. Ciao. Buonasera, ciao. Buonasera, Cruciani. Che parli sempre di omosessuali, non è che. Ma infatti ti vedo bene te coi tacchi in rossetto, devo dire, non ti mica male. Allora, spero proprio, Parenzo, che il liceo di Treviso, dove è scoppiato lo scandalo della sexy professoressa, non abbia intenzione di prendere provvedimenti. Pare che adesso i tatuaggi non ci siano più. Sul corpo di questa signorina, di questa professoressa. Chiama la professoressa. Sì, magari. In che senso chiama la professoressa? No, chiama la professoressa, non signorina, è una professoressa che in passato fece queste foto un po' così per un sito che non ricordo americano, quale, forse americano. E sì, poi... vabbè, gli studenti le hanno scoperte. Cioè, spero e le hanno adesso diffuse urbi e torbi. Spero che nessuno abbia intenzione di prendere provvedimenti nei confronti di questa signorina. Ma credo. No, ma capace pure che la pubblicazione di queste foto sia ritenuta incompatibile con l'insegnamento. E poi i giornali, no? Adesso ecco le foto dello scandalo e tutti pubblicano queste foto che sono foto in realtà di un bel culo, sì, di qualche tatuaggio. Sì, delle foto un po' provocanti, ma non sono foto porno, insomma, no? Si vede molto di peggio. Non c'entra con le competenze della professoressa. Ma no, ma infatti. Nelle infatti. Materie di sua. Certo che quella in cui si scopre eccetera, arriva a far vedere un enorme tatuaggio, non sono male però, eh. Vabbè. Non ho analizzato la pratica. Antonio nel da Pavia, Antonio da Pavia. Renzi ha preso l'elicottero, ma non doveva essere il premier che risparmiava, poi si è fermato per un incidente. Ma ti volevo aspettare. No, ma non era ti quello che risparmiava su tutto, là. No? Basta le scorte, volevo basta. Proprio aspettarti al varco. Era proprio così necessario prendere l'elicottero? Ma anche tu. Era proprio così necessario prendere l'elicottero? Grillina, no, domando. Chiedo, in chiedo. Questa canea grillina. Chiedo, era necessario prendere l'elicottero? Ma il presidente del consiglio, ma non lo valuti tu se che è necessario c'entra? No, dai, su. Il presidente del consiglio deve viaggiare come presidente del consiglio. Ancora Antonio da Pavia, dai. Antonio pauperista. Allora, Cruciani, non è che se tu, poveretto, ignori. Perché sei ignorante, certi problemi non esistono. Parlo in riferimento al discorso degli animali da compagnia. Come non vengono pignorati? Vengono pignorati e come? Perché hanno dei valori commerciali notevoli, quindi un cane, un gatto di razza, trattati alla stessa stregua di un tavolino o di un mobile. Vabbè Antonio, ho capito. Vabbè, ma... cazzo per te, vabbè, non ti ma sarà un problema il pignoramento degli animali, Antonio! Non si fa mai niente! Il pignoramento degli animali, ma dai, su, il pignoramento degli animali! Ma vai in internet, guarda Equitalia quanti animali li mette all'asta, le case d'asta mettono animali sequestrati, ma che cazzo stai dicendo? Vabbè, ma ci sono degli animali che valgono magari, e se uno ha dei debiti, un animale è un vabbè, è impignorabile, ho capito, è impignorabile, dai. È impignorabile ed è un bene, diciamo, è trattato dalle persone che lo prendono e lo tengono come se fosse volete rendere impignorabili gli animali, volete fare perdere tempo in Parlamento su rendete impignorabili gli animali, avanti su, se vi fa piacere, se è una cosa che risolve i problemi va benissimo, ottimo. Hai altri problemi da risolvere, non mi pare, perché per te è tutto un qualunquismo, quindi ma che cazzo stiamo a parlare? No, ma ho capito, ma se ti piace questa cosa, se ti piace che uno si occupi dell'impignorabilità degli animali, credo allora problema, problema minore, dai. Ma certamente ci sono problemi più grandi e gravi, però se non ci fosse stata la Michela Brambilla, che non è della mia parte politica, sì, però sì, rispetto agli animali sta facendo notevoli cose. Va bene, benissimo, quindi, ottimo, se ti accontenti di questo, amico mio, sì, se ti accontenti di questo, va bene. Non mi accontento di questo, voglio anche questo. Va bene, dai. Non è che questa è la mia priorità quotidiana, però voglio anche questo, mentre tu col tuo qualunquismo non facciamo questo, non facciamo quest'altro, sono tutte merde, non si combina. Ma io non ho detto affatto questo, sei tu che parte per la tangente. Detto, ma figuriamoci, io ho detto che animali, sinceramente l'impignorabilità degli animali, amico mio, sì, saranno dei casi sporadici. Allora tu, tua figlia viene lì il giudice, la pignora perché... Ma non è la stessa cosa, dire che è la stessa cosa. Figlia avesse un animale di compagnia che sì, lo tratta come hai ragione tu, bisogna rendere impignorabili gli animali, benissimo, rendiamo impignorabili gli animali perché ti crea qualche problema, battiamoci per l'impignorabilità, lascia che faccia l'impignorabilità degli animali, bene, abbiamo risolto il problema dell'impignorabilità, quando l'avremo che la vita non la cambia e abbiamo risolto un problema. Salerno, vai, grazie Antonio. Pippo. Sì, ciao, buonasera a tutti. Dimmi. Senti, allora, giusto tre cose in merito di Luca, primarie e PD. Uno, il meccanismo delle primarie così com'è è una boiata italiana indicibile. Due, in provincia di Salerno De Luca ha avuto i voti delle truppe cammellate dell'UDC. Sì, però, amico mio, bisogna provarlo anche. E poi già. Non solo bisogna provarlo, ma non è contro le regole andare a votare, anche se uno si iscrive lì ci saranno un minimo di regole, forse si possono fare meglio, si può sempre fare meglio, non c'è dubbio. Allora? Poi tre, la doppia morale della sinistra, hai ragione. Per forza, scusa, ma oggi il vicepresidente del Senato, la signora Fedeli, quella con i capelli rossi che è stata presidente del Senato pro tempore durante ha detto che De Luca non doveva candidarsi, ma allora decidetevi prima, esiste un codice etico, sentiamo la signora Fedeli, ha detto non doveva candidarsi, cioè, ma vi rendete conto o no? C'è uno che vince le primarie e il vicepresidente del Senato del PD, la signora Fedeli, quella con i capelli rossi, eccetera, dice che non si doveva nemmeno candidare, ma ti rendi conto della follia di quello che non è stato deciso? Fedeli. Quando un candidato sa che in base alle leggi attuali non può essere governatore, secondo me c'è anche un atto di responsabilità propria in cui uno non si candida. Questa è la mia opinione. Brava. Poi che volevi dire, Pippo? La quarta cosa, hanno votato per le primarie del PD in Campania 157.000 elettori. Gli elettori della regione Campania sono circa 5 milioni. Vabbè, hanno votato in pochi. In realtà, questo che vuol dire? In realtà le primarie ci vanno sempre molto, non molto è meno persone. Il problema, diciamo, è stato anzi considerato un successo l'afflusso in Campania, cioè da tutti i punti di vista. Ma va bene, Donato da Varese, partito, Pippo. Donato da Varese, sì, infatti, non è una roba. Non è indicativo. Vai, di Donato. Mi segui? Sì, ti seguo, vai. Allora, io voglio dire questo, è inutile che qua ci mettiamo a parlarci addosso, hanno ammazzato qui, hanno derubato lì, hanno scassinato lì, non c'è più questo è Donato, il pazzo solito, sì. Non c'è più sicurezza per le strade, non mio padre, quando io commettevo una marachella, la prima cosa che dice, se ero responsabile di qualcosa mi dava una sberla, se io vado in uno zoo e apro le gabbie ai leoni, con la premeditazione che quei due, sapendo che quei due sono affamati e io faccio mangiare 10 persone, mi mandano in galera, allora voglio sapere quei due porci, quei due saproti, eccolo, quei due vermi, Prodi e D'Alema, ma che c'entra? Voglio fare questo annuncio a tutti, pazzo, i maledetti rumeni, albanesi, tutti che stanno scaraventando tutti i nostri italiani, tutti i loroculi che stanno ogni giorno e ammazzano qualcuno. Voglio sapere se allora io non ho l'indirizzo di Prodi, qualcuno me lo potrebbe dare l'indirizzo di Prodi? Ma che c'entra Prodi? Scusa, ha firmato il trattato di Lisbona, ha fatto entrare una marea di assassini, di sporchi, di duri, di vermi, 100.000 badanti del cazzo che non servivano la minchia, c'erano 100, perché non si sono presi 100.000 italiane? Chi è quel coglione di merda che si permette? Ma no, di aspetta, dire... Dorado, stai calmo, stai tranquillizzati. No, io sono calmo, molto pazzo, guarda, io non sto facendo mica la sceneggiata. Io purtroppo parlo in questa nave perché è una nave ufficiale dove dentro la quale si possono dire un sacco di cose. Noi dobbiamo andare a beccare Prodi. Ma perché dobbiamo andare a beccare Prodi? Noi dobbiamo portarti all'ospedale. Hanno firmato il trattato di Lisbona, l'hanno firmato, hanno fatto cos'è entrare rumeni, slavi, tutte le razze schifose di questa pazzo, terra. Certamente c'è anche un numero bravo, è normale, uno ce n'è, ma sono tutti certo criminali. Sono morti più di 5.000 italiani. Chi paga il conto? Andate a casa di Prodi D'Alema. Questa è la legge italiana. Ma i suoi genitori, ma perché quella sera non sono andati al cinema? Porca. Vabbè, adesso sei pesante. Ma scusa un po', ma io voglio parlare con Parenza. Ma scusa, chi ha fatto entrare queste persone? Ma chi? Ma perché quella sera i tuoi genitori non sono andati al cinema o al teatro? O a mangiare una pizza anziché stare a casa? Ma io voglio sapere, ma i tuoi genitori quella sera potevano mangiare una pizza? Bersi una birretta, mangiare una pizza? Potevano vedere degli amici anziché stare a casa e procreare Donato da Varese? Potevano? Non è che l'umanità stava lì ad aspettare e dire oh mamma mia, no, ma ragazzi non mi accavallate, su dai, Vedrai poi cosa dirai, vedrai cosa dirà. Io non sto qui da stare stemmando a fare spettacolo, non mi interessa un cazzo. Io sto solo dicendo che è inutile che vedere questi programmi su rete qua, gente che non sa più che cazzo fare in mezzo alla strada. Cioè, ieri sera a me qualcuno mi stava derubando. Era un africano, benissimo, un amico di Parenza. Ma perché gli africani sono venuti qui a derubare? Perché noi stiamo morendo lentamente? Perché quegli sporchi comunisti si interessano dei fascisti, non si interessano dell'Islam? Perché deve pagare 1.300.000 euro per importarci i criminali? Perché quel porco di Renzi viene a raccontare che i criminali dell'ISIS non salgono sulle zattere? Qua dove cazzo l'ha visto sto figlio di puttana una zattera? No, beh, dai, adesso stai esagerando. No, lo chiamo figlio di puttana. Dai, Donato, su. Cazzo, il danno che ha provocato deve fermare Mare Nostrum. Deve fermare, ma noi siamo l'unico paese al mondo che siamo le navi militari di Stato. No, digli qualcosa. Ma cosa vuoi dire? Non c'è più. Intanto Mare Nostrum non c'è più. Fermo un attimo, Donato, fermo. Ma come fai a fermare un pazzo? Intanto tutte le... Ma non c'è più Mare Nostrum. Non esiste più. È stato sospeso. Donato D'Amato da Varese. Mamma mia, non esiste più Mare Nostrum. Non sai neanche niente. Niente. Non c'è più, informati. Non c'è più l'operazione Mare Nostrum. È stata sospesa, malnato che non sei altro, malnato. Mamma mia, cervello di salsiccia, cervello di polenta che non sei altro che un cervello di polenta. Perché le strade ieri sera a Milano non è più sicuro nulla. Ma che ti è successo oggi? Tornare a 20 anni fa, fuori dai coglioni, almeno ci... Gli arabi non devono nemmeno entrare, non devono nemmeno mettere il piede in quest'Italia, perché le donne islamiche, che ce l'hanno sempre calda, c'è sempre calda. No, vabbè, adesso stai esagerando, le donne adesso ci vuoi fare, ci vuoi fare. Sono quattro volte più delle donne. No, vabbè, dai, basta, dai. Ma veramente adesso ci vuoi veramente far attaccare dall'ISIS qua, dai. Ma non è che è offensivo. Basta, Donato. Ottima trasmissione, sempre la migliore. A proposito di vitalizi, c'è il solito Cicchitto che è contrario a togliere i vitalizi per i condannati. Cicchitto. Secondo lei è giusto che gli ex parlamentari condannati in via definitiva prendano il vitalizio? Essendo un loro diritto, secondo me sì. Quindi pure un condannato per mafia, per frode fiscale, è giusto che prenda il vitalizio? Se uno c'ha un diritto, c'ha un diritto. Quale che sia, vale per tutti i cittadini. Non è che ci stanno cittadini in serie A, cittadini che siano condannati. Non ci mettiamo su questo terreno. No, perché altrimenti andiamo incontro al giustizialismo più folle. E poi anche l'amico ex socialista Lucio Barani dice che... Sentite. Lost my desire. giusto che i pregiudicati prendano il vitalizio. I pregiudicati si prendono la pensione del lavoro che hanno versato i contributi. Ma hanno l'attività parlamentare. Non lo so. Hanno corrotto le persone, si sono fatto corrompere, hanno concorso con i fatti di mafia. È una sua idea, guarda, è una sua idea. No, l'idea della magistratura italiana. No, è la sua. Terzo grado di giudizio. Ascolti, ascolti. Sulla questione della magistratura, sì. No, c'è una verità processuale che non è la verità. Noi quella dobbiamo riconoscere, lo sa, quella della Costituzione. Lei non lo sa la differenza. Io so un sacco di cose, ma manco lei. È la verità. No, lei cita la Costituzione a corrente alternata. Io lo richiedo, non lo so. Meno male. E a me vi piacciono le donne. Arrivederci, pure a me. No, prego, non è una bella chiusura questa, eh? Un po' omofoba. Cos'è che dice Barani al giornalista da non so di cosa? Io l'orecchino non lo porto, mi piacciono gli uomini e le donne. Vabbè. Andiamo a Firenze, Massimo, vai Massimo, vai. Sì, buonasera. Dimmi. Ti voglio dire, io ascolto sempre la Zanzara quando torno a casa, ora sono in macchina per esempio. Sì. E ho notato da un po' di tempo a questa parte è venuta poi la storia dei Rom, no? Sì. E nei radioascoltatori c'è, insomma, si vince questa, tra virgolette, questa ostilità nei confronti dei Rom. Allora mi sono cominciato a fare delle domande. E tra me e me ho detto, ma io lo conosco un Rom che lavora? È quello che mi chiedo anch'io. L'altra volta è spuntato fuori un pugile, in realtà, un pugile. Siccome il mio parco di conoscenze è molto. Insomma, c'ho un po' di conoscenze, ma non è che ne ho tantissime, no? Cioè, tu dici non conosci un Rom che lavora. Allora ho cominciato a domandare ai miei amici: ma scusate, sì. Ma voi lo conoscete un Rom che lavora? Oppure avete un amico che conosce un altro amico che conosce un Rom che lavora? Sì. E la risposta è stata solo una, ovvero no. A questo punto questa domanda però la voglio fare anche a Parenzo. Sì, no, ma infatti, Parenzo, tu conosci un Rom che lavora? Ah, più di uno ne conosco. Più di uno, in che settore? Conosco ad esempio un'attrice Rom che si chiama Dania Parenzo. No, ma Dana non parlare, no, non parlare dei Rom, quelli che non sono più Rom. Dai, su, non dire, non che fare il furbo. L'attrice dai. Di, no, furbo. Non fare il furbo. L'attrice di teatro. E poi ho conosciuto proprio nei mesi scorsi quando mi occupavo di questa roba alcuni Rom che vivevano nei campi, che mi hanno mostrato il loro contratto di lavoro, che però al loro datore di lavoro non possono dire di vivere nei campi perché altrimenti non li avrebbero assunti. Ma vabbè. È tutto vero. Dopodiché ci sono anche dei ladri, ovviamente, come in tutte le categorie umane, diciamo, come no, in tutte le categorie. No, non come tutte le categorie umane. Come tra i padani, come tra i no, niente. C'è una cosa che si chiama proverbio che dice che l'eccezione conferma la regola. Ovvero l'eccezione è il Rom che lavora, la regola è che il Rom che non lavora. Perché se dici di aver conosciuto i Rom, forse ti sarai anche affacciato alla loro cultura e saprai benissimo che per loro cultura non si lavora. Sai questo, io adesso vero? La che va la bene Massimo, la... grazie. Luciano, Roma. Luciano, vai. Ragazzi, buonasera Giuseppe. Dai, dimmi, dimmi, Luciano, dimmi. Senti, io ti voglio dire una cosa bella veloce veloce. Io sono un autista dell'ATAC, no? Sì. E sento sempre parlare delle solite cose, i Rom, ma per l'amor di Dio, premesso che io non sono un razzista. No, certo, però, bisogna sempre dirlo questo. Poi? Assolutamente, però noi sull'autobus qua dell'ATAC, io infatti a Davide Parenzo di venirsi a fare un giro. No, questi sono i colleghi. Che dicono? Io vado sempre in auto. Che dicono? Che dicono i colleghi a Piazza Mancini? Che dicono? Che qui i Rom purtroppo i Rom no, quello diceva una cosa, hanno rotto il cazzo, ti stanno sentendo perché loro stanno in viva voce, quindi i colleghi ti sentono. Con lei volete parlare con Giuseppe, volete dire qualcosa in merito? Beh, gli autisti dell'ATAC grandissimi, che ma dicono? Hanno ragione, probabilmente sono esasperati, che dicono, loro, che dicono dei Rom, non che non facciamo più perché sono più sicuri, porca miseria. No, perché non sono più sicuri, dimmi che succede, ma solo colpa dei Rom oppure anche di altri? No, allora sono i rumeni, sono tutti questi sudamericani, no, di prima. Vabbè, ma ci saranno pure gli italiani che rompono i coglioni sugli autobus o sono solo stranieri? Guarda, sinceramente i problemi con gli italiani ce l'abbiamo solo in occasione delle partite. Passami qualche collega tuo incazzato là, che sento delle voci di sottofondo. Sì, ma non solo loro sono incazzato pure io, perché ci stanno dei gruppi di Rom che escono sugli autobus. David, io ti voglio bene, però ti voglio ma io lo capisco fatti. Perché vengo con l'autobus in provincia ogni tanto, no, mi è capitato di venire con l'autobus, ma scherzi, mi fermano anche sull'autobus sulla linea sulla linea 69 di Sira, oppure sulla linea 900. No, ma immagino che sia pericoloso. Parlare, no? Allora, allora ho capito, sono sempre gli stessi che rompono la scatola. Hai voglia di ma chi è quel collega polizia, tuo che urlava? Segnalatelo alla polizia, certo. Te lo passo, te lo passo. Eccolo, eccolo, eccolo. Ti vuole Giuseppe Cruciani? Sì, che è successo? Dimmi, caro, dimmi, dimmi. Che succede? È una situazione insostenibile. Qui a Roma è una situazione insostenibile. E la gente anche c'ha paura. Quando salgono sull'auto si mettono seduti vicino a noi perché hanno paura, perché i borseggi è un continuo. Tu che, su che linee? Soprattutto la sera. Noi giriamo tutta Roma, tutta la città giriamo. Ma il problema è solo dei Rom? È solo dei Rom o no? Sono solo i Rom che fanno casino, che rubano, oppure anche altri? Ma naturalmente ci stanno anche i peruviani, i sudamericani, ci stanno. Certo. Roma è una città multinazionale. Ma i ladri ci sono dappertutto, certo, ha ragione. I ladri ci sono dappertutto, ma ha ragione. Però i Rom, dici tu, i Rom. No, ma basterebbe, ha ragione questo autista. Perché la gente non l'ascolta nessuno, gli autisti e la gente dell'utenza non. Ma voi dovete chiedere a Marino di farvi mettere su questi autobus che vanno in periferia la sera delle guardie giurate. E voglio vedere io poi se. Questo dovete chiedere, avete ragione. Ma se Marino non ci riceve, non riceve neanche le strutture indagali. Chiedete al comune di farvi mettere in queste linee che vanno in periferia delle guardie giurate, perché i ladri al comune. Noi siamo arrivati in 300 sotto il Campidoglio. Avete ragione, avete ragione. Vabbè, amici, vai, avete ragione. Dopodiché non c'è l'attenzione. Ciao, vi abbraccio, ma avete tutti, ragione. Ciao. Dopodiché nessuno, non vedo che però telefonate su questo hanno ragione loro, ma telefonate indignate di romani o milanesi che si arrabbiano quando i tifosi, ad esempio, di una squadra. L'ha detto prima l'autista, vengono caricati prima l'indignazione per quello. Quindi i ladri vanno puniti in quanto ladri. Allora, io voglio cercare di pizzicare per telefono di quelli che prendono il vitalizio da condannati. Non ce ne sono rimasti molti, sì, ce ne sono rimasti molti, ma vediamo un po' se risponde al telefono l'amico Pillitteri. Paolo Pillitteri, stato sindaco di Milano, prende 3.016 euro, circa 3.000 euro di vitalizio, condanne per ricettazione e finanziamento illecito. Pillitteri, vediamo un po' se lo pizzichiamo stavolta. E dai, forza. Pronto? Paolo? Sì? Ti disturbo, sono Giuseppe Cruciani, ciao. Come stai innanzitutto? Beh, insomma. Senti, volevo chiederti due cose su questa storia del vitalizio dei condannati, su cui c'è uno scatenamento generale. Ah no, per favore, no, ti prego, no. Dimmi cosa ne pensi, dimmi cosa ne pensi. Facciano quello che vogliono, non me ne occupo, per carità. Ma a me sembra una cosa profondamente, non solo ingiusta, ma illogica, però insomma. Ma spiegami perché illogica. Sai, a me sembra una cosa anche così ingiusta. Non... Se ti levano a te questi 3.000 euro al mese che prendi, credo, di vitalizio, no? Per avere fatto 2009, diciamo 2009 per l'esattezza. 2009, la cosa ti cambia la vita, sì, naturalmente. Cioè, Beh sì, un po' sì, certo. Non è che muoio, per la verità. Però la vita cambia. A tutti cambia la vita, no. Se vengono meno 2.900 euro, non è che sono. No, magari no. Hai un sacco di soldi da parte e ne puoi fare a meno di quei soldi lì. Ma no, sono come. Cioè, ti servono per campare? Quelli che hanno una certa età, quello che ho, non sono ricchissimo, non sono ricco, sto bene, non sto male, ecco. Cioè, però insomma, la trovo una cosa così. Misera. Demagogica. Ma mi sembra una vendetta, vendetta. C'è un elemento, si dice quelli che hanno violato delle regole con la pubblica amministrazione sono stati condannati per reati, diciamo, importanti come ricettazione, come sei stato tu, finanziamenti illeciti, eccetera, a un certo punto non possono ricevere un vitalizio dallo stesso Stato che hanno tradito. È una... Ma cosa c'entra? Ma io sono stato riabilitato, c'è stata la riabilitazione. Appunto. Oh. Sì, ma la riabilitazione non è che cancella la pena, diciamo, no? Come non cancella la pena? Cancella gli effetti della pena. Sì, gli effetti, ma non è che cancella le condanne. Ma non è che cancella le condanne, uno che è riabilitato è come prima, può votare, può essere votato, cioè le cose sono completamente diverse, ha pagato il suo debito con lo Stato, con la società, questa è la riabilitazione. Comunque, se dovessero toglierti questi soldi, tu farai ricorso? Oh, non lo so, guarda, non lo so, ho altre cose a cui pensare, io la trovo una vendetta postuma. No, non, certo. non sarò certamente io che impedirà una cosa del genere. Se accade, accadrà. Cosa possiamo fare? No, ma io voglio capire una cosa. Se ti tolgono 2.900 euro al mese, 3.000 euro al mese, hai difficoltà a chiudere il mese, ad arrivare alla fine del mese, o no? Beh, sì, un po' sì. Dunque la consideri una vendetta, davvero una vendetta contro, una vendetta postuma inutile a questo punto, inutile? Sì, sì, sì, sì. Cioè, non hanno altri argomenti. Cioè vogliono offrire al popolo qualcosa? Sì, sì, sì, scalpi, cappi sventolati, dopo 20 anni, capirai, dopo 20 anni! Davide, la mia condanna. Sì. Sono passati 15 anni della mia riabilitazione e scopre cosa possiamo fare. Va bene, grazie, ciao. Ciao Paolo. Grazie, ciao. La grande gogna secondo dei condannati, dei condannati in via definitiva che prendono il vitalizio dallo Stato. No, ma ha ragione Pilitelli. Può anche avere ragione. No, il punto ragione, fondamentale però dirlo. È un altro. Contro il mainstream che tu sostieni, bisogna dire che, perché poi tutti ridono, arrivano le telefonate, ecco difendete un corno. Ha pagato il suo debito con la giustizia, ha fatto. Ma quel il vitalizio che non è fare, una pensione. Se tu pensione. Hai, sei stato grazie. Condannato per reati anche contro lo Stato, è se vogliamo. Ormai un populismo da cappio, ha ragione lui, cioè non è quello, ha perfettamente ragione Pilitteri. È stato e allora mandarsi a fare in culo il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, che ne stanno, parlando da mesi. La cosa assurda è che molte di queste persone così interessate in verità non siedono in Parlamento e quindi non voteranno neanche a favore o contro, perché non ci sono lì, non decideranno loro. Vabbè, quello quindi, che c'entra. C'entra, perché in realtà non hanno nessun conflitto di interessi, perché non saranno lì a votare. Fermo. Voi due parenti state lavorando? No, due parenti sparate minchiate, no? Non so quanto ben pagati, ma questo è un affare che non mi riguarda. E tu lo chiami lavoro questo? Beh, oggi Zanzarologi, antologia della zanzara, su, sentirete tra poco. Zanzarologi, antologia della zanzara. Sindaco di Salerno, candidato PD in Campania. Non si può tollerare la mancanza di rispetto da parte dei tuoi interlocutori. Questa che dice al presidente in carica, mi pare che stiamo a Ballarò. Ma va a morire, ammazza, e vattene, ma va di andare avanti a fare due passi davanti a Montecitorio. Ma come ti permetti? È una cosa incredibile. Questo era De Luca su un esponente dei 5 Stelle quando ci fu il, sì, no, quando ci fu il famoso colloquio per formare il governo, comunque insomma le consultazioni di Bersani su Lupi, che sembra la figlia di Fantozzi. Senti, ti ricordi questa cosa qua? Lupi, la figlia di Fantozzi. Come no? Quando era in lotta per le deleghe. Sì. Per essere chiari, e finisco, il mio interlocutore non è Lupi. Con Lupi noi abbiamo un conflitto aperto sul piano estetico, perché io non sono Brad Pitt, ma lui mi pare che somigli alla figlia di Fantozzi, diciamo così. Ma lo scontro è politico. Poi contro Travaglio, no? Lo aspetto al buio, senti. Mi è capitato di sentire quel grandissimo sfessato di Travaglio che aspetto di incontrare per strada al buio qualche volta a Roma, perché gli devo questo pipì, perché i pipì quelli sono furbi, capite, i pipì. Però non c'è Travaglio, non è corretto, non è che voglio difendere. No, è scorretto lui che parla 10 volte per televisione su cose su cui non capisce niente, su cui io non c'entro niente. Non sono scorretto io, imbecille. Aspetto di trovarlo al buio. Poi non mi ricordo che era sulla moto, che era avvelenato con quelli che lasciavano la moto parcheggiata male a Salerno. I cafoni che vanno a mettere la moto parcheggiata nella rotatoria della piastra Nizza davanti al bar abbiano la decenza di spostarsi di 20 metri. Dove la metto la moto? E te la porti a casa, imbecille. La vai a mettere nel parcheggio 20 metri più avanti, anziché bloccare il traffico di via Eugenio Caterina. anzi, bisognerebbe inventarlo se non ci fosse, diciamo la verità, eh. Bisognerebbe inventarlo. Allora, non vogliamo dire niente su un amico leghista, amico per modo di dire, fatto, il signor Paolo Mazzucchelli. Ah, sì, quel sindaco di Cairate in provincia di Varese. Sì, ma pare che si sia rimangiato tutto, no, in realtà. Si è rimangiato un corno perché è intervenuto il prefetto, come sai, sì, a dare la cittadinanza alla signora indiana umiliata dal sindacuolo Padan Paundiano. Non gli ha dato la cittadinanza perché parlava male italiano. Parlava male italiano. Vabbè. Ora dico, cari amici della prefettura, della radio, cari amici di Cairate Varese, ascoltate qualche giorno Radio Padania qualche volta. A quanti padani bisognerebbe togliere la cittadinanza perché non sanno parlare italiano? No, ma ti dico di più. Question mark, come dicono gli inglesi. No, ma ti dico di più. C'era un famoso leghista, famoso leghista in Parlamento, senatore se non sbaglio, delle Marche, che senti come parlava italiano, senti. Perché a un certo punto voleva trovi a farle prendere ai ragazzi e chi aveva bisogno, leggere, per modo che non venga la speculazione. La speculazione, perché se la droga la dai. Non ho capito. A un certo punto la droga perché costa caro, perché non si vuole avere, capito? No, non ho capito, scusi, non ho capito la speculazione, che cosa? La droga, se la compri perché è una cosa che non si vuole prendere personalmente, la droga, no? E quindi è proibita. Eraldo Isidori. Eraldo Isidori. Parlava italiano, forse Eraldo Isidori? Ecco. Parlava italiano, Eraldo Isidori. Nella città governata da Paolo Mazzucchelli della Lega Nord non avrebbe diritto alla cittadinanza. Dai, su, mamma mia. Ma abbiamo con noi, caro Parenzo, un tuo amico, un tuo carissimo amico. Barbara Spinelli, editorialista. No, ma che deputata. Barbara Spinelli, che cosa ce ne frega di Barbara Spinelli, dai, su. Non c'è Barbara Spinelli. Fabrizio Bracconeri, ciao Fabrizio, come stai? Fabrizio. Ciao coppia di pazzi, ciao. Ma li portava. Pazzi, tu, ma li portava. Ma che, stai pronto per la partita ormai, eh? Stai pronto? Sto prontissimo. Stai friggendo come un pazzo a casa, eccetera. Senti, ma anche sai che ieri sera è vero, ho visto il capitano, eh? Chi è visto? Chi è il capitano? Totti. Ma scusami. Bello come il sole. Ero a una cena alla Pergola, Lilton la Pergola, e ho visto il capitano lì. Vabbè, adesso non ce ne frega niente. Ha mangiato poco questa sera, ha mangiato poco o ha esagerato? Ma no, ma che ne sa, capitano? Non ha visto. E che ne so che ha mangiato? Ma non ha visto nulla, Parenzo. Però era lì con tutta la squadra. Io voglio capire una cosa, caro Fabrizio, ma tu sei salviniano oppure no? Perché... O non ti piace Salvini? Ti faccio una confessione. Fammi una confessione. Quello che dice Salvini oggi, sono stato il primo in Italia, l'ho detto anche a Fratelli d'Italia, poi mi sono accorto che Fratelli d'Italia è coinvolta gente che sta da 20 anni dentro il Parlamento, inguattata. Cioè, non ho capito, mi stai dicendo che Salvini ha copiato da te? Allora tu guarda su YouTube una cosa di Fabrizio Bracconeri che con Salvini, io dissi a Matteo, Matteo, se tu fai Lega Italia con questi toni, con questi obiettivi, prendiamo l'Italia, perché l'Italia ormai è stanca di queste. Qui in Italia non si è capito perché non si vota, te lo spiega Fabrizio. Non si vota perché la sinistra ha paura, tutti quelli che stanno al Parlamento, che sono 960.000 persone, diciamo. 800 sono inguattati da 20 anni che non si, neanche si conoscono, stanno al Parlamento, non ci vanno, prendono i benefici, prendono i soldi, poi? Si prendono la pensione. Gli altri 200 fanno un po' di attività parlamentare, sono quelli. Ma questo che c'entra? Spiega l'analisi di Bracconeri. L'analisi non è pronta per le elezioni, perciò sarebbe un casino. Allora stanno portando avanti, prendendo per culo gli italiani. No, ma ho capito, ma che c'entra con Salvini? Tu hai detto di essere stato quello che ha Salvini era l'unico pronto, secondo me, che poteva farlo, e gli dissi: Matteo, fai Lega Italiana, Lega dell'Italia, con questi obiettivi, fuori tutti questi che arrivano, che non si sa quando, che fanno, queste regole impossibili che ci detta l'Europa, che la sinistra... Vabbè, allora sei contento, ti ha copiato, sei contento? Ma copiato, però ti dico, se si chiama Lega Nord, io sto più con Casa Pound che con Lega Nord, mi sento più Casa Pound che Lega Nord, anche perché gli obiettivi di te sono le stesse. Vabbè, ma per cui non ho capito, alla fine... alla fine Matteo ha fatto quello che io gli avevo suggerito, ma se lo guardi su YouTube, lo vedi. Cioè, ci stai dicendo, caro Parenzo, ci sta dicendo Bracconi, che lui è stato praticamente il suggeritore, ha copiato Salvini, ha copiato Bracconi. Digli qualcosa. No, che in genere le analisi così politologiche, io ho riservato adesso al professor Luca Ricolfi, che è un neo editorialista del nostro adesso che c'entra, dai. No, ma perché adesso l'idea che Bracconeri, Fabrizio Bracconeri, che è persona straordinaria, simpaticissimo, diventi il consigliere principe del signor Salvini. Questo lo stai dicendo tu, che io sono consigliere principe. Io vi sto dicendo che abbia ispirato la svolta su verde nera. Dove dichiaro? Io sono andato a vedere. Mi tremano le vene ai polsi. Borghi. Sono andato a vedere Borghi che faceva Claudio Borghi. Sì. L'economista. Che parlava sull'euro, parlava dell'euro, alla quale io devo dire condivido. Vabbè, ma sei andato in Piazza del Popolo o no? Non sono potuto andare perché era un convegno sull'autismo, cosa altrettanto importante. Certo, io credo che... Meglio quello, bravo, giusto. Secondo me è più anche perché... Ma certo, ma andare lì, bravo. Perché c'è un figlio autista, sì, certo. No, ma hai fatto benissimo... Autistico, sì, scusami. Hai fatto benissimo ad andare a quel convegno lì, anziché a quell'altra... Quella è una cosa molto seria. Io non ho capito una cosa, scusa, caro Bracconeri, ma le bandiere dell'Europa, mi dice qualcuno, mi suggerisce qualcuno... A me l'Europa, a me fa schifo questa Europa. Allora, ma è vero che hai bruciato bandiere dell'Europa? Due bandiere dell'Europa, le ho comprate, le ho pagate 5 euro l'una, sono arrivato a casa e ci ho acceso il camino. Vabbè, ma ho capito, ma che è sta cosa? A che serve? Hai bruciato due bandiere così per soddisfazione personale? Per soddisfazione personale? Per soddisfazione, adesso posso spendere 10 euro, li spendo volentieri e bruciare la bandiera dell'Europa. Però hai speso 10 euro per comprare due bandiere dell'Europa e bruciarle nel camino? Vabbè. Sì, perché l'Europa non ci sta rovinando. A noi entrare in Senti, Europa, ma quanto sei Salvini? Voglio capire quanto sia. Ho capito, sull'euro sappiamo la posizione che hai. Quanto sei salviniano? Per esempio, sulle prostitute, tu legalizzeresti tutto? Sei mai andato a prostituta, mignotta? Sì. Se ci sono andato non te lo dico a te sicuramente. Ma... Comunque io ho iniziato a fare televisione e cinema a 18 anni. Ero già abbastanza conosciuto e andare insomma per la strada la sera con gli amici. Mancata questa cosa perché mi divertiva molto dire a una signoria di strada che l'hai dato per 4. Sì, dacci una gonfiata a Erode. No, non è com'era la storia? Com'era la storia? Scusa, Fabri, ce l'hai fiato per 4? Sì, ecco, dacci una gonfiata a Erode. Allora, mi è mancata. Beh, questo è stupendo. Ce l'hai, non ho... hai capito tu? La metafora, ce l'hai fiato per 4? Ce l'hai, ma che non capisci? Ce la fai a reggerne 4? Sì, ma lo spiego. Ce l'hai fiato per 4 persone. Allora gonfia le gomme, vabbè. Non capito, questa non l'hai fatta, non l'hai mancata questa roba qua. L'ho mancata perché purtroppo lavoravi. No, ero già conosciuto, insomma. Non potevi andare per strada. No. Vabbè, Fabri, ciao, ti saluto. Buona serata, ciao. Vatti a vedere la partita, ciao. Ciao, ciao. Ciao belli, ciao. Antonio, provincia di Siracusa. Antonio, vai. Buonasera, Cruciani. Dimmi. Finalmente. No, niente, io devo confessarti che al 18 mi trovavo al bar in piazza, così nel mio paesino. Arrivano due che votano a sinistra e mi dicono: ma sai, Antonio, hanno scelto De Luca, hanno ricandidato De Luca, che ha avuto precedenti, ha avuto problemi, di nuovo. Ma non lo so, gli dissi, guardi, io quello che vedo, parlando con questi conoscenti, anche se sono di ideologie diverse dalle mie, però sai, l'amicizia, la fede politica è fede politica. Gli dissi, guardate, secondo me i grossi partiti, sia Forza Italia sia il PD, ormai non ascolta più la base. Invece Salvini, secondo me, ecco, come il precedente amico che ha parlato, Salvini ha degli amici, come anche in provincia di Siracusa, non dico chi, come anche a Milano, a Pavia, come a Varese, a Trapani, insomma, eccetera, eccetera, che le suggeriscono discorsi di base, ecco. No, ma non ho capito niente, Antonio, però non ho capito che vuoi dire, non ho capito. Voglio dire che i partiti grossi scelgono delle persone che poi non piacciono alla base, questo sto dicendo. Vabbè, Antonio. Grillo, Salvini, ascolta la base. Va bene, Guido Biella, non ho capito Ciao. Nulla. Anche Guido. Io come Bracconeri avrei un suggerimento per Salvini, ma non è proprio la stessa cosa che diceva Bracconeri. No, dimmi, qual è il suggerimento, dimmi. No, vabbè, c'è un personaggio che veramente mi fa orrore, e lui diceva mi fa schifo l'Europa. A me, boh, non so, pensare che c'è un personaggio come Salvini che si appoggia al populismo più scarso, più di basso livello e si mobilita un paese in un weekend, l'informazione per ospitare a Roma una persona così, però non era questo, volevo parlare d'altro. Devo dire al signor David che l'altra settimana ha difeso, comunque ha approvato la tesi di Mannheimer, Renato Mannheimer, che dopo aver evaso il fisco e aver messo soldi dappertutto diceva ma sì, ma adesso poverino si è riabilitato. Poverino perché... ancora, non ho detto che ha pagato. No, ha pagato, ma non si è costituito. Non è che ha detto io ho rubato 5-6 cioè, l'hanno scoperto. Beh, d'accordo, certo. Dopodiché lui devo ancora trovare una persona che si costituisce, io esatto, in generale. Allora no? non capisco questo apprezzamento nei confronti di Mannheimer con la sua voce. No, io in generale dico pagato, come per Valentino Rossi, come per. Hanno preso con le mani no, ma dico vale anche per un. Vale anche per uno come Valentino Rossi, ad esempio, no? Che ha fatto. Ma non che mi ha fatto... sembra che Valentino Rossi vada in radio a dire ma io adesso sono riabilitato, io ho fatto. No, anzi, ma infatti a Valentino Rossi nessuno chiede più niente. Scusa, ma secondo te che fine, scusa, Mannheimer che fine dovrebbe fare secondo te, Guido, scusa? No, ma se vi ricordate il tono del suo intervento era come dire ma io adesso cosa volete da me? Io ho anche ridato i soldi. Ma grazie signor Mannheimer che sei un privilegiato, fai un lavoro che praticamente non esiste. Hai privilegiato non più direi, no? Hai dei miliardi sotto mano. Non ha più neanche la società. E hai anche fottuto. Ma sì, ma dopodiché le persone pagano. E poi devi sentire anche il signor David che dice no. Ma certo. No, il signor David dice che se una persona se non fosse ha pagato, amico tuo, se non fosse un amico tuo l'avresti già decapitato. Ma no, lo dico anche per molti altri. Cioè se uno ha pagato, ma io ho capito, ma se uno ha pagato molte sei comprensivo. Il debito con la giustizia e ha dato indietro i soldi come deve. Ho capito, ma sei comprensivo quando si tratta di più. Ma no, ma volete umiliarlo ancora di più? No, pagato per fortuna ha dovuto. Certo, ma infatti ha pagato. Fermi tutti, ci sentiamo domani. Ci mancherebbe. Ciao. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Cruciani, brutto sciagurato. Radio 24. La passione si sente.